quieres o qué? Vas con la tigua a capire. Come inutile, calpestare giorni insieme a te. Sei rimasto un'illusione, trascinata tristemente in un'emozione, fatta esplodere senza dirti niente. Che può l'amore, non vive amore in fondo al cuore, non puoi odiare e amare, ci fa male l'amore, giudicasse tu, colpisci le mie debolezze, l'amore vuole stare bene, ogni frammento della vita vissuta con te. Voglio andare avanti, dimenticandomi che esisti, e ripulendo.